Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte quarta. Allora, nei primi momenti della rivolta ci sono state scene molto confuse, nel senso che immediatamente la cosa che è circolata è stata: ci sono 19 guardie sequestrate, e questo ha prodotto un grande stupore. C'erano sentimenti di incredulità, di paura e di stupore, ma poi subito il clima generale è diventato rapidamente un clima di grande eccitazione, probabilmente perché quello che tutti quanti sentivamo in quel momento è stato specialmente il fatto di essere padroni di questo spazio, il fatto di potersi muovere e di poter andare su e giù liberamente per tutto questo spazio, e anche il solo fatto di muoversi liberi in uno spazio più grande della propria cella nella quale si era costretti, innescava questo meccanismo di eccitazione generale. Allora è successo che la parte dei detenuti che avevano preparato la cosa, che l'avevano organizzata, hanno immediatamente innescato tutti i meccanismi organizzativi della rivolta. Questi compagni si sono dati dei ruoli, dei compiti precisi, che erano quelli della vigilanza, del controllo dei punti principali, da dove si poteva tentare un'irruzione da fuori, perché le guardie potevano sempre tentare un'irruzione, anche se con gli ostaggi che avevamo la cosa non era così semplice. E poi c'era. Doveva occuparsi del piantonamento delle guardie sequestrate, e tutto questo è avvenuto molto in fretta. Tutto questo meccanismo organizzativo è stato messo in funzione rapidamente, nonostante la grande confusione, perché evidentemente era già stato tutto prestabilito e questi ruoli erano tutti già stati assegnati prima. C'erano dei compagni con un armamento che andava da queste caffettiere, che erano caffettiere moka, che poi infatti dopo ne hanno vietato l'uso in cella. Da queste caffettiere usciva la miccia, c'era il detonatore e dentro c'era l'esplosivo, e queste caffettiere funzionavano da granate. L'esplosivo era stato nascosto nelle celle e era proprio questo che le guardie cercavano quando avevano fatto quella strana perquisizione. Avevano cercato in tutte le scatole e nelle bottiglie, perché è lì che si nasconde l'esplosivo. Non l'avevano trovato, ma le avevano lasciate tutte sui tavoli per lasciare il messaggio che lo sapevano che in carcere c'era l'esplosivo, che avevano sentore che qualcosa doveva succedere. Le guardie sono state messe tutte quante dentro un camerone ed è cominciato tutto questo rito della perquisizione, eccetera. Le guardie non sono state assolutamente toccate, nessuno gli ha fatto male, solo alcuni compagni hanno cominciato a mimare, ma senza cattiveria, con molta ironia. Sembrava una scena degli indiani del 77, hanno cominciato a mimare tutto quanto il rito della guardia nei confronti del detenuto, e allora così sono stati perquisiti tutti quanti, certamente come loro perquisivano i detenuti quotidianamente. Sono stati messi lì in piedi con le gambe un poco divaricate, le braccia alzate, e poi perquisiti come si fa abitualmente, come loro facevano a noi tutti i giorni quando uscivamo e quando ritornavamo nelle celle. Gli si facevano passare prima le mani sulla testa, le dita, tra i capelli, sotto i capelli, poi giù, dietro la testa, sul collo, giù sulle spalle e sotto le ascelle, e poi scendendo giù lungo la schiena, in basso, il culo, le gambe, dietro e giù per le gambe, fino ai piedi, e poi di lì risalire di nuovo su per le gambe, le cosce, l'interno delle cosce, il ventre, e poi su, tutto il torace, fino a tornare al collo, e poi facendo sbottonare i pantaloni, abbassare la cerniera, tastando la cinta dei pantaloni, tastando i coglioni, e poi togliere le scarpe, farsele dare e rovesciarle per guardarci dentro. Tutto questo mentre stavamo lì. le guardie una dopo l'altra come noi abitualmente, le braccia alzate, le gambe un poco divaricate. La cosa che tutti hanno constatato dopo questa perquisizione che hanno fatto a tutte le guardie è stato che fra le 19 guardie sequestrate non c'era neppure un graduato, se non un povero disgraziato appuntato che evidentemente era lì per caso, e questo fatto che non c'era lì neanche un graduato ha fatto pensare a tutti che i graduati avevano avuto sentore che stava succedendo qualcosa, sapevano benissimo cosa stava per succedere, perché mai e poi mai era successo che sul piano non ci fosse nemmeno un graduato, nemmeno un brigadiere, e in quella circostanza, proprio quella volta lì, su tutto il piano, anzi su tutti e due i piani, il primo e il secondo piano, in tutti i bracci non c'era nemmeno un brigadiere. Poi, più tardi, gli hanno fatto togliere anche le divise, li hanno spogliati e gli hanno portato degli abiti che portavano i detenuti e li hanno fatti vestire con questi abiti perché questi qui erano ostaggi e quindi se avevano la divisa, se c'era un'irruzione, sarebbero stati immediatamente individuati da chi faceva l'irruzione, polizia, carabinieri o le guardie stesse per liberarli, che così potevano esercitare una rappresaglia immediata contro i detenuti senza correre il rischio di mettere in gioco la vita delle loro guardie. Se invece erano vestite come i detenuti, tutto sarebbe stato più difficile. Non c'è stato nessun atto di violenza nei confronti delle guardie. Tutti quanti, mi ricordo, si preoccupavano e continuavano a ripetere che comunque alle guardie non doveva essere fatto nulla, perché quella era la nostra garanzia del fatto che tutto finiva bene. Le guardie sequestrate sono state messe tutte quante dentro un camerone e controllate da fuori. Sono sempre state trattate bene, hanno avuto anche da mangiare, come tutti noi. Quello che si mangiava durante la rivolta erano gli spaghetti, che ce n'erano delle quantità nelle celle, c'erano dei compagni che cucinavano gli spaghetti per tutti gli altri e passavano a prendere le ordinazioni. 3 matriciane, 4 carbonare, 5 al pomodoro, si cucinavano spaghetti dappertutto, sui fornelli a gas, da campeggio, e anche le guardie sequestrate hanno avuto i loro spaghetti. Anche gli altri detenuti, quelli che non erano tra gli iniziatori della rivolta, si sono dati anche loro subito spontaneamente un livello di organizzazione adeguato in caso di un eventuale scontro con le guardie, in caso di un eventuale attacco. È partito così tutto un meccanismo, con molta enfasi da parte di tutti, e insomma la gente ha cominciato ad armarsi. Hanno cominciato a tirare giù gli infissi delle finestre per farne lame, spranghe e cose di questo genere. Hanno cominciato a fare i punteruoli con i ganci dei fornelli a gas da campeggio. Con le punte che venivano acuminate hanno cominciato a fare mazze, spaccando le gambe dei tavoli e cose di questo genere. Poi sono state tirate giù dai cardini le blindate e sono state piazzate contro i finestroni in fondo, ai corridoi, perché da fuori potevano sparare dentro, eccetera. Tra l'altro, prendendosi tutto il carcere e la gente, si erano presi anche alcuni strumenti, anche delle macchine. Per esempio si era preso una mola elettrica che è servita per tagliare le piastre di ferro dei letti e così con quelle piastre si potevano fare lame, si potevano farle in serie. E c'era anche una saldatrice elettrica che è stata usata per saldare i cancelli della rotonda e bloccare così la possibilità di un'irruzione dal basso e anche di un'irruzione dall'alto, perché dal secondo piano c'era una scaletta a chiocciola che portava sul tetto, e poi c'era anche la possibilità di usare il telefono del posto di guardia del secondo piano, e attraverso questo telefono si comunicava con la direzione del carcere, e questo è stato lo strumento di comunicazione per le trattative. E poi c'era la televisione, perché un'altra cosa strana è stata che durante le rivolte in genere tolgono completamente l'elettricità, e invece questa volta non avevano tolto l'elettricità e avevano lasciato in funzione la televisione, come per lasciarci la possibilità di sapere le notizie dall'esterno. Avrebbero potuto benissimo staccare tutto quanto, ma invece hanno lasciato l'elettricità, hanno lasciato in funzione il telefono, hanno lasciato in funzione la televisione e dalla televisione arrivavano le notizie sulle trattative. Tutte le televisioni nelle celle erano tutte accese in continuazione, col volume al massimo, specialmente quando c'erano i telegiornali, e la notizia della rivolta veniva sempre per prima. Dentro le celle non sono state affatto distrutte. Si è trasformato tutto in un enorme bivacco, nel senso che la gente non faceva che andare su e giù per tutta la lunghezza dei corridoi. Saranno stati una cinquantina, 60 metri, tutti andavano su e giù continuamente, alcuni bardati semplicemente con un fazzoletto o una sciarpa intorno alla faccia, altri invece che erano irriconoscibili, incappucciati in una federa con due buchi per gli occhi, una coperta come un poncio sulle spalle, e questi erano evidentemente comuni, perché i comuni avevano le loro abitudini nelle rivolte, per non farsi riconoscere, come si vede sempre nelle fotografie delle rivolte sui tetti, che hanno sempre la faccia nascosta per non farsi riconoscere e evitare le conseguenze. Dappertutto la gente non faceva che muoversi, tutti non facevano che camminare su e giù per i corridoi, dentro e fuori delle celle. Sembravano misurare veramente uno spazio fisico maggiore, uno spazio più grande di agibilità che avevano conquistato, e continuavano a camminare, continuavano su e giù per i corridoi, dentro e fuori le celle, tutte aperte che davano sui corridoi. E tutti quanti continuamente si spostavano da una cella all'altra, al punto che le celle hanno completamente cambiato aspetto. C'era un movimento continuo di persone e di oggetti che venivano spostati, trasportati da una cella all'altra, un movimento continuo di oggetti, di indumenti, di cose che era diventato tutto un grande bivacco, una festa. Il clima che c'era era di euforia, c'era un clima di festa. Io mi ricordo di questa enorme euforia, di questa eccitazione, di questa festa. E quello che tutti dicevano in continuazione, di cui erano convinti, era che mai e poi mai ci poteva essere un intervento militare da parte delle guardie, dei carabinieri, della polizia, delle forze repressive. E questo proprio per via del fatto che c'erano sequestrate 19 guardie. E questo rendeva quasi impossibile un'irruzione, perché sarebbe stato molto pericoloso per le guardie sequestrate. Mi ricordo che non c'erano preoccupazioni, mi ricordo che non c'era assolutamente nessuna ansietà, mi ricordo che c'era euforia e eccitazione. C'era questo meccanismo che era scattato nella testa di tutti, di considerare questa situazione come non pericolosa e che la faceva vivere a tutti come una festa. C'era un'attività frenetica al cantinone. C'era quello che faceva l'elettricista e aveva tirato una linea elettrica attaccandosi ai fili esterni dell'ospizio. C'era quello che faceva l'idraulico e aveva sistemato le tubature, e così avevamo anche l'acqua. C'erano quelli che facevano i muratori e che erano andati a prendere i loro attrezzi e si erano messi a chiudere i buchi nel pavimento e a sistemare le piastrelle. C'erano quelli che facevano i falegnami e che costruivano telai di legno per le finestre e le chiudevano poi con dei teli di plastica. E in fondo al salone avevamo costruito con le assi e le travi che avevamo trovato il grande palco per i concerti e per gli spettacoli che volevamo fare. Il concerto di inaugurazione era già stato annunciato con un manifesto e dei volantini che i compagni distribuivano in giro. Erano arrivati anche 3 o 4 vecchietti dell'ospizio vicino, che si ricordavano quando una volta il cantinone funzionava ad osteria e c'erano lì delle botti enormi, dei tavoli e delle panche per tutta la lunghezza, perché quello era il posto dove i contadini si incontravano per bere il vino e giocare a carte. E gli abbiamo promesso che avremmo rimesso lì le botti e le panche e il vino, come una volta. Poi tornano un gruppo di compagni che era andato in giro a fare propaganda per il concerto. Tornano con le macchine piene di roba da mangiare. Noi crediamo che abbiano rubato e ci incazziamo, ma invece c'erano stati dei negozianti che ci avevano regalato casse di bibite e di pasta. E poi sono arrivati lì dei ragazzi napoletani che lavoravano in una pizzeria. sono arrivati con una montagna di pizze e così c'era da mangiare per tutti. Intanto si erano formate le prime commissioni di lavoro, che si erano installate nelle stanze al primo piano. Valeriana e un gruppo di ragazze si riunivano per mettere in piedi un consultorio autogestito, altri preparavano un programma di controinformazione sulle droghe leggere e pesanti, altri si occupavano dell'alimentazione e della controcultura, altri della musica, del cinema, del teatro. Si decide di prendere contatti coi circoli giovanili di altre città, di cui avevamo avuto notizie per uno scambio di esperienze e di informazione, e per formare un centro di documentazione con i loro giornali e i loro documenti. E in un'altra stanza del primo piano già funzionava un centro stampa, con macchine da scrivere e ciclostile, che lavorava a tempo pieno. I pacchi di volantini, di comunicati, di annunci, di documenti si accumulavano sui tavoli del centro stampa in attesa di essere distribuiti. Arriva la sera del concerto e arrivano i gruppi musicali. Arrivano da diversi paesi dei dintorni. L'impianto è pronto, le luci sono pronte. Le luci fanno macchie colorate sui muri, imbiancati, del salone. I gruppi cominciano a provare, suonano tutti insieme e i suoni sovrapposti escono sulla strada, si diffondono in giro. La gente arriva a mucchi, arrivano giovani da tutte le parti e anche non giovani. La strada davvero si trasforma in un parcheggio con tutte le macchine imbottigliate. Dentro c'è una marea di teste, tutti seduti sulle panche e per terra, che battono i piedi per terra e tutto rimbomba, mentre le luci colorate girano sempre più in fretta. Io guardo in giro per vedere dov'è China e la vedo contro il muro con Gelso, che ride con la testa che sussulta, i capelli che le coprono tutta la faccia. Quando la rialza mi vede e agita la mano e mi fa segno di venire lì anch'io. La festa era al massimo. C'era una grande euforia, c'era una grande eccitazione, gente che entrava e che usciva, in continuazione, una confusione indescrivibile. Tutti erano entusiasti di quel posto, dicevano che dovevamo restarci lì a tutti i costi, che avremmo fatto delle cose fantastiche nel cantinone. La musica suonava al massimo. Io, attraverso la folla, incrocio Scilla, con in mano una chiave inglese lunga mezzo metro, che dice «Qui ci sono troppi sballati. Se ne trovo uno che si buca, lo sfondo». Era l'unico cupo lì dentro Scilla. Tutti guardavano il palco, dove uno adesso cantava. Mi piace molto di suonare, con la musica per stare, ma non mi guadagno il pane, perché suono come un cane. Sono un teppista, c'ho in testa la conquista, sono un po' brutale, ma ti giuro sono normale. E io sono andato a mettermi con China proprio sotto il palco, e sono stato lì stretto con China mentre la musica suonava al massimo. Improvvisamente la musica si interrompe. Scilla è salito sul palco e dice nel microfono: «È arrivato qua fuori l'assessore culturale con un messaggio del sindaco e della giunta». La gente sghignazza e dice: «Portacelo qua, che ce lo mangiamo». L'assessore alla cultura è giovane, piccolo, nervoso, con i baffetti, un impermeabile bianco e ha fatto il 68. Aspetta pazientemente che le voci si abbassino per lasciarlo parlare e poi dice: «Vi devo comunicare che la situazione è precipitata. Abbiamo appena ricevuto una telefonata del questore che ci annuncia lo sgombero nelle prossime 24 ore. A nome della giunta e del sindaco vi rinnovo l'appello alla ragionevolezza e al buon senso. Evacuate il cantinone e vi promettiamo uno spazio nel nuovo centro polivalente appena saranno terminati i lavori». Partono da ogni parte della sala urla e schiamazzi, poi prende la parola Nocciola. «Tu vuoi fare il furbo? Prima andate a dire che qui siamo provocatori e fascisti, poi che ci volete trovare uno spazio per noi. L'unica cosa è che vi trema il culo per la vostra giunta, perché se era per voi, la polizia la chiamavate voi, per prima. Ma noi sappiamo benissimo che questa storia del centro polivalente è una favola, basta pensare al disinteresse che avete sempre avuto per i nostri problemi». «No, no», lo interrompe coraggiosamente l'assessore. «Voglio dire che questa è una calunnia. Il problema dei giovani è un problema che ci sta molto a cuore. Nel nostro bilancio sono previste spese importanti per i giovani e per la cultura, ma ci sono dei tempi che si devono rispettare, però vi assicuro che anche i vostri problemi troveranno rapidamente una soluzione adeguata. Dovevate parlarne con noi, prima, dice con tono conciliante, dovevate rivolgervi a noi con fiducia e insieme avremmo trovato una soluzione adeguata. Io penso che le esigenze che sottendono questa vostra iniziativa sono legittime. Quello che invece non è legittimo è la forma con cui pensate di realizzarle. Noi dobbiamo trovare insieme un'altra forma, ma intanto è necessario sgomberare il cantinone prima che accada l'irreparabile. La gente ne ha abbastanza. Fuori, fuori, gridano tutti. Aspetto una risposta. Me ne andrò da qui solo con la vostra risposta, sia che sia affermativa o negativa, riesce ancora a dire poi. Valeriana dal palco fa fare un po' di silenzio e dice che la decisione spetta all'assemblea e che dobbiamo discuterne tutti, ma non in sua presenza, e che lui, se vuole, può aspettare fuori e poi gli riferiamo la nostra decisione. Scilla lo scorta fuori e prima di scendere dal palco alza il braccio con la chiave inglese levata. Scoppia un applauso fragoroso. Tutti urlano. Noi del collettivo non sappiamo bene che cosa fare. Ci consultiamo un momento. Poi Corogno prende il microfono. Compagni, noi da qua non ce ne possiamo andare, sotto la minaccia dell'intervento della polizia. Se noi adesso sgomberiamo volontariamente, accettando il ricatto del sindaco e dei partiti, noi abbiamo perso. Allora noi dobbiamo decidere cosa è meglio fare, se restare qua a difendere l'occupazione, il che vuol dire andare allo scontro, oppure no. Io penso che oggi come oggi non ci conviene andare allo scontro. Penso che stroncherebbe il movimento, sia che vinciamo o che perdiamo militarmente, perché in tutti i casi perderemo politicamente e anche se vinciamo militarmente ci troveremo di fronte a una situazione ingestibile. Noi dobbiamo decidere la cosa che ci conviene di più per la crescita e il rafforzamento di questo movimento. E allora il problema più importante per noi non è di conservare il cantinone a ogni prezzo. Il problema è che dobbiamo conservare questa forza che ci siamo costruita. E per questo noi dobbiamo rifiutare lo sgombero volontario che ci propongono, ma dobbiamo anche rifiutare lo scontro, magari un minuto prima, ma dobbiamo decidere autonomamente noi quando e come sgomberare. Se noi sgomberiamo per decisione autonoma nostra, noi conserviamo intatta la nostra forza politica e domani potremmo portare avanti di nuovo le lotte di questo movimento per la conquista di uno spazio sociale. Potremmo portare avanti altre occupazioni e altre lotte. Se invece andiamo allo scontro oggi, qui ci giochiamo tutto e secondo me perdiamo tutto. Ci sono state molte bocche storte, anche se la maggioranza è d'accordo con Ortica. Ma nell'euforia generale quello era buttare acqua sul fuoco. Comunque la nostra posizione passa nella discussione e così mandiamo a dire al sindaco che l'assemblea ha deciso di continuare l'occupazione a oltranza, ma poi decidiamo che non possiamo stare lì a aspettare tutti quanti l'irruzione. Ci saranno lì 400 persone, rimanere lì tutti e poi andarsene tutti quanti all'ultimo momento è impossibile. È meglio che lo facciamo in pochi, perché così è più facile andare via. Ci vuole pazienza per convincere tutti. Nessuno se ne vuole andare, nessuno voleva rassegnarsi che la festa era già finita. Ma alla fine se ne sono andati. Hanno smontato e portato via tutto quello che non doveva restare lì, e alla fine siamo rimasti lì, solo quelli del collettivo, una sessantina in tutto. Nel salone si accendono le candele e si spengono le lampade centrali. Ritorna il clima delle sere prima, coi sacchi a pelo che si srotolano e la gente che si stende, solo che nessuno questa volta ha voglia di parlare o di cantare, di raccontare storie e fare progetti, di arrotolare spinelli e fare l'amore. Questa sera ognuno ha di fianco al suo sacco a pelo un bastone o una spranga. Vedo Valeriana seduta contro una colonna, che fuma, guardando fisso le ombre geometriche sulle volte a crociera. Mi avvicino con china e vedo che ha gli occhi un po' lucidi. Che c'è, Valeriana, merda? tutto questo lavoro per un cazzo. A me piaceva questo posto. Un posto così bello non lo trovi più. Magari se occupiamo un capannone diroccato in mezzo alla campagna, quello magari sono capace di lasciarcelo. Ma un posto come questo, che poi non sanno neanche cosa farsene, non ce lo lasciano mica, quei bastardi. Ogni tanto qualcuno del turno di guardia torna dentro per darsi il cambio. Fuori fa un freddo cane, anche dentro non fa più troppo caldo. Mettiamo giù il sacco a pelo e io mi infilo così come sono. Il pavimento è duro, ma sono stanco e mi sembra di essere comodo lo stesso. China si toglie la sua giacca da uomo, a spighe, la arrotola e me la mette sotto la testa. Così saremo più comodi, dice, e si infila anche lei. China non ha sonno e canta a bassa voce. Io sono un gran teppista, sono il meglio della festa, non tagliare la mia pista, o per te saranno guai. Io dico con gli occhi chiusi, la pista ormai ci hanno già tagliato tutto. Adesso basta che non ci arrivino anche i guai. Ma China continua. A volte è fatale, se mi comporto male, ma anche in galera volevo uscire ogni sera. Libri ribelli. Libri ribelli.